Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, che da un punto di vista borsistico oggi non presenta grandi spunti. Le borse sono abbastanza invariate, meno 0,2 Milano, invariata Parigi, meno 0,2 anche Francoforte, Londra più 0,46, Dow Jones invariato. Tra i titoli segnalo pochi movimenti: Moncler più 2,60, Telecom Italia più 1,70, Saipem più 0,90 come Campari e A2A. Più forte invece il movimento su alcune banche: il Monte dei Paschi meno 3%, tra l'altro ha annunciato che il giorno degli stress test, venerdì prossimo alle 22, dovrebbero uscire ora italiana i risultati. È indetto anche un consiglio di amministrazione straordinario del Monte dei Paschi. Di Siena, Pop Milano meno 2,5%, CNH meno 2,30, Tenaris meno 2 come Banco Popolare. L'1,70% lo perde Fineco Banca, l'1,40 il calo sia di Mediobanca che di Yux Net-a-Porter, Fiat Chrysler meno 1,1 come Azimut e Unipolsai e la Popolare Emilia Romagna. Euro leggermente debole a 1,09 nei confronti del dollaro. Parleremo di banche anche oggi, fermo restando che, come ogni venerdì, c'è la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Oggi i dirigenti pubblici la faranno da padroni, ma parleremo di banche perché le offerte giunte per acquistare le quattro good bank, ossia le banche rimesse a posto, tra virgolette, Carife, quindi Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Etruria, Banca Marche, Cari Chieti, sono arrivate le offerte, adesso verranno analizzate dagli advisor, dice appunto l'Autorità Nazionale di Risoluzione che fa capo alla Banca d'Italia, però ricordo che le banche sono state salvate da un fondo di risoluzione bancario, quindi i soldi li hanno messi le banche, anche le principali banche del paese, che aveva sostenuto il salvataggio di queste quattro banche, ricorderete la vicenda a fine novembre, tirando fuori 1,6 miliardi. Secondo le fonti, però da verificare, sarebbero arrivate invece offerte per un valore complessivo tra i 500 e i 600 milioni. I due fondi sono uno Apollo e l'altro è Lone Star. La terza offerta, da quello che si è capito, riguarderebbe infatti solo le società di assicurazione di Etruria e quindi non avrebbe la caratteristica di essere un'offerta complessiva. Ora è chiaro che 500 e 600 milioni di euro sono molto poco rispetto a quanto è costato alle altre banche salvare queste quattro banche, 1,6 miliardi, e vorrebbe dire che se venisse accettata quell'offerta le altre banche dovrebbero portare a casa una perdita secca di 1,1 miliardi. E infatti, poi ne parleremo, c'è chi si è messo a dire forse a quel punto converrebbe non cederle e provare a continuare a risanarle per non perdere così tanti soldi, ossia i soldi che sono stati messi per salvarle. Converrebbe alle banche che hanno messo questo 1,6 miliardi, ma ne parleremo più avanti, così come parleremo anche della settimana, una settimana che è stata relativamente tranquilla dopo una settimana disastrosa la scorsa, ma relativamente tranquilla se si fa eccezione per quello che continua a succedere e a capitare in Turchia, e ne parleremo a questo punto. Dopo aver sospeso la Convenzione Europea per i Diritti Umani, un atto quasi più formale che altro, visto come si era comportato Erdogan nei giorni successivi al golpe, ormai le epurazioni hanno raggiunto la quota di 65.000, 10.600 gli arresti, 530 i dipendenti sospesi dal Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, addirittura 200 sospesi dal Dipartimento Risorse Idriche e Forestali, 300 dalla TV di Stato, 29 dall'ente che regola le telecomunicazioni, i dipendenti pubblici allontanati, chiaro come pretesto, perché insomma non hanno partecipato al golpe, sono a questo punto quasi 45.000, a cui vanno aggiunti 21.000 docenti a cui è stata tolta la licenza di insegnamento nelle scuole private, considerate troppo laiche, troppo poco vicine all'Islam, a cui fa riferimento Erdogan, 1600 rettori e presidi rimossi, licenziati 8700 dipendenti al Ministero degli Interni, 500 imam, 300 persone nello staff del primo ministro, 400 dipendenti del Ministero degli Affari Sociali. Pure lì ti chiedi cosa c'entrano i dipendenti del Ministero degli Affari Sociali con il golpe dei militari. E su questo sono stati revocati anche 15.000 passaporti, 11.000 passaporti a vari, appunto, cittadini turchi. Ne parleremo soprattutto per il fronte geoeconomico, che è anche un fronte geopolitico. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia, sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, al di là della Turchia, poi vedo anche molti messaggi. Sì, parleremo di Erdogan e di Trump, perché non sfugge a nessuno che, per quanti temi di Trump siano temi molto relativi, diciamo, all'opinione pubblica americana, alla sicurezza, aver rilanciato la proposta di un muro al confine con il Messico, insomma, è chiaro che, insomma, iniziamo a ragionare anche in uno scenario post-estate. Una Turchia messa così, l'Europa alle prese con problema bancario in alcuni paesi e un problema della sicurezza e dei flussi migratori, e gli Stati Uniti che potrebbero vedere Trump presidente, insomma, non, comunque non la possa pensare, le incognite ci sono e sono tante. Allora, vedo che alcuni consigliano di applicare la politica di Erdogan ai dipendenti pubblici italiani. Ragazzi, non scherziamo, cioè, noi raccontiamo tutte le settimane gli sprechi della pubblica amministrazione, sia a livello locale, comunale, provinciale, regionale, che a livello statale, e questo è un punto. Non confondiamo però quello che è un atto completamente antidemocratico che sta compiendo Erdogan, già poco democratico prima, in Turchia. Comunque, andiamo avanti con le altre notizie. C'è una prima bozza di quello che dovrebbe essere il comunicato finale del G20 che si apre domani a Chengdu in Cina, dove la Brexit verrebbe indicata come una delle incertezze all'economia globale e alla crescita dell'economia globale, però le conseguenze possono essere affrontate in modo proattivo, mentre la fiducia del G20 è di vedere un Regno Unito come partner molto vicino all'Unione Europea. L'indice PMI Market, che misura l'attività manifatturiera dei servizi in Gran Bretagna, è crollato nel mese di luglio a livello più basso dall'aprile del 2009. Questi sono sempre indicatori, ho capito, però tutti gli indicatori dopo la Brexit vanno tutti in direzione negativa. Poi c'è chi mi scrive: vedrete fra un anno, due anni. Ho capito, vedremo fra un anno, due anni. Intanto, ora come ora, tutti gli indicatori sono negativi. Drastico deterioramento dell'attività economica in Gran Bretagna, è crollato appunto a 47,7%, e a questo punto l'indagine sottolinea come il PIL della Gran Bretagna rischi quest'anno di subire una contrazione dello 0,4% nel terzo trimestre a causa della Brexit. I dati diffusi dall'indice Market PMI sono stati letti subito anche nel rapporto di cambio della sterlina. E infatti, tra l'altro, anche perché a questo punto ci si attende che la banca centrale inglese tagli i tassi di interesse, e la moneta britannica ha perso l'1% soprattutto nel rapporto, anche con l'euro, ma nel rapporto col dollaro è a 1,31 dollari. E sempre di effetto Brexit si parla anche nel taglio delle stime sulla crescita dell'economia dell'area euro per il 2017 e 2018. Gli analisti specializzati citati dalla Banca Centrale Europea vedono quest'anno l'economia dell'area euro cresce dell'1,5% secondo quanto era già stimato, ma l'anno prossimo dell'1,4 contro l'1,6 e nel 2018 dell'1,6 contro l'1,7. Vengono riviste a ribasso anche le stime sull'inflazione nei prossimi due anni, a dimostrazione che domanda interna, consumi buoni, tali da portare una leggera spinta sui prezzi, non ce ne sono. Quest'anno dovrebbe fare più 0,3% l'andamento dei prezzi al consumo, mentre più 1,2 l'anno prossimo e più 1,5 nel 2018. E faccio notare che oggi sono intervenuti al comitato scientifico della Fondazione Aristide Merloni a Porto Novo, Ancona, sia l'ex premier Enrico Letta che l'ex premier Romano Prodi. Hanno le previsioni sull'effetto Brexit sono un po' divergenti. Per Letta ha usato un'espressione abbastanza chiara: per i britannici sembra impossibile riuscire a rimettere il dentifricio nel tubetto, che è un modo di dire anche in Gran Bretagna. Quello che è accaduto è una vicenda tutta interna a un singolo partito, i Tories. I conservatori dimostra che la politica conta e conta come è la politica che decide. Mentre Prodi ha definito l'ex premier Cameron un matto, e chi lo sa che fra 3 anni gli inglesi, tenendo conto delle difficoltà di smontare 40 anni di Europa, non ci ripensino e invece rimettono il dentifricio nel tubetto. Sempre Prodi ha definito l'Europa come in ospedale, e quindi in ospedale si spera sempre di guarire, curiamola bene, altrimenti sarebbe un disastro. Però Prodi ha diffuso anche delle previsioni pessimiste per sua stessa missione. Ha detto che stiamo entrando, qui ricorda molto Stiglitz, stiamo entrando in una stagnazione secolare. La differenza fra ricchi e poveri, che comincia in Cina, sta togliendo potere d'acquisto a tutti. Globalmente stiamo accompagnando la crisi dei commerci internazionali, che non saranno più trainanti. Andiamo alla Germania, dove la Deutsche Bank, che tutti indicano come una banca problematica per l'enorme ammontare di derivati che ha in pancia, pari a oltre 22 volte il PIL tedesco, beh, oggi ha rotto un tabù e secondo quanto riporta la Süddeutsche Zeitung starebbe ipotizzando di dividere in due la banca, una divisione sostanzialmente, a Francoforte preferiscono parlare di riorganizzazione, finalizzata a semplificare le strutture, e un progetto in cui appunto si dovrebbe arrivare a due modelli organizzativi, in cui uno sia più retail e l'altro più banca di investimento. L'industria italiana a maggio purtroppo è calato sia il fatturato che gli ordini attivi, già ieri ce lo ricordava Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, meno 1% rispetto al mese precedente, ma guardando anche al tendenziale, cioè all'anno prima, la contrazione del 2,7% nei ricavi, nei fatturati, a parità di giorni lavorati. E purtroppo è una conseguenza sia del rallentamento sul mercato interno, meno 1,1, che su quello estero, meno 1,2. Gli ordinativi invece sono calati e tanto, meno 2,8%, soprattutto per il calo del mercato estero, meno 5,7%, quello interno ha registrato una flessione ma più contenuta, meno 0,6. E poi l'Istat ci dà anche i dati oggi sul commercio. Le vendite al dettaglio a maggio sono leggermente aumentate rispetto ad aprile, ma sono calate rispetto al maggio del 2015, e questa non è una buona notizia, meno 1,3%. I prodotti alimentari hanno fatto meno 1,8% rispetto a un anno prima, e i farmaceutici sono gli unici a salire, più 2%. Le flessioni più marcate riguardano calzature, articoli in cuoio da viaggio, meno 2%, ma anche giochi, sport e campeggio. I cali quanto a esercizio commerciale colpiscono tutte le tipologie di negozio, ci dice l'Istat, compresi gli hard discount, e quindi diminuisce sia nelle imprese della grande distribuzione, meno 1,7, sia in quelle operanti su piccole superfici, meno 1%, e con cali nella grande distribuzione dell'1,3% sui prodotti alimentari, del 2,4% nei prodotti non alimentari. Ai dati Istat sono dedicati 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La ripresa dell'economia continua a segnalarsi meno solida, più fragile di quel che si era sperato. E proprio a conferma di questo raffreddamento delle prospettive incappiamo oggi in una giornata di certo non positiva per i dati che arrivano sul fronte macroeconomico. In primo luogo l'industria. A maggio, dice l'Istat, si è registrata una flessione sia del fatturato, meno 1,1%, sia degli ordinativi, meno 2,8%. Un calo che per il fatturato vale sia sul mercato interno sia per quello estero, mentre per gli ordinativi preoccupa di più la flessione sui mercati esteri. È un andamento che tutto sommato conferma le previsioni al ribasso di questi giorni, da ultimo quello del Fondo Monetario Internazionale, che ha ritoccato all'ingiù le stime sulla crescita italiana, anche a causa degli effetti della Brexit. Altro dato Istat di ieri, anche in questo caso non brillante, i consumi. A maggio le vendite al dettaglio hanno registrato sì un picco incremento rispetto al mese precedente, ma nella media degli ultimi tre mesi l'indice complessivo segna un calo piccolo, meno 0,3%, ma pur sempre negativo. Infine il commercio extra UE, che come sappiamo ha rappresentato l'ancora di salvezza per la nostra industria durante la fase acuta della crisi. Anche qui purtroppo le notizie non sono incoraggianti, perché prosegue la tendenza a una contrazione mensile delle esportazioni, diminuzioni di volumi e di valori che su base annua è arrivata a sfiorare il 3%. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Allora, oggi la classifica vede il predominio ecco, vedo che adesso, attenzione, il TAR ha annullato il differimento dello sciopero dei voli, domani si rischia il caos, lo dico a chi in ascolto, sui voli aerei. Ebbene, così, allora, partiamo dal... oggi la fanno da padroni dirigenti, comunque, partiamo dal quinto posto, dove praticamente stanno emergendo un insieme di irregolarità e di stranezze grazie alla struttura di audit interno della stessa regione Lombardia sull'attività di alcune strutture regionali come Arca, Eupolis, Finlombarda e la direzione Sport. Purtroppo non è che ci sia molta notizia. Che cosa sta emergendo? Ex manager che hanno percepito uno stipendio troppo alto, dipendenti che hanno usato la carta di credito aziendale, viaggi, banchetti e film, fondi pubblici dati a chi non aveva i requisiti e consulenze che sono state stipulate senza che ve ne fosse bisogno. Partiamo da Arca, che in Regione Lombardia si occupa degli acquisti e degli appalti centralizzati per ospedali e enti regionali. Sono state trovate diverse spese con carte aziendali o addebitate alla società senza che fosse necessario, 16.000 euro non dovuti pagati a un dipendente e spese per un banchetto a Milano, 360 euro, per due viaggi, uno da 1.800 e l'altro da 1.000 euro, che nulla avevano a che fare con l'azienda, fino all'acquisto, ma siamo sempre lì, banchetti, acquisti, di un sito che vende film e prodotti cinematografici, immagino fondamentale per chi si occupa degli acquisti e degli appalti centralizzati. Passiamo a Finlombarda, la cassaforte della regione Lombardia. Gli ispettori contestano lo stipendio troppo alto del direttore, quindi Paolo Altichieri, succeduto a Giorgio Papa, numero uno dal 2011 al 2015. Lui lasciò dopo che il suo stipendio fu ridotto da 320.000 a 240.000 euro. Adesso i controllori sottolineano come Finlombarda debba presentare un nuovo piano di recupero mensile della maggior retribuzione erogata nell'anno 2014. Tradotto, dovrà chiedere indietro i soldi in più pagati a Giorgio Papa e dovrà fare più attenzione a come i dipendenti, lo dicono gli ispettori interni della Regione Lombardia, usano il telepass, i cellulari e le carte aziendali. Eupolis, invece, l'Istituto per le Statistiche e le Ricerche, i controllori contestano le troppe consulenze stipulate. 5 milioni e 400 mila euro di consulenze per l'Istituto di Statistica e Ricerca della Regione Lombardia, 5 milioni e mezzo nel 2013, quasi 6 milioni nel 2014. E ancora, tra l'altro, nella direzione sport della Regione Lombardia fanno notare gli ispettori che vi sono stati beneficiari privi di requisiti in almeno 5 occasioni, quindi chiedono di scrivere con maggiore chiarezza i futuri bandi di concorso. Vado avanti, concludo con la ex ASL Milano 1, ora ATS Milano, e l'ospedale di Pavia, coinvolte nell'inchiesta che ha travolto l'ex vicepresidente regionale Mario Mantovani. Proprio qui i controllori scoprono in entrambe le aziende carenze sistematiche, ma va là, per quanto riguarda il rispetto delle norme. Ma saliamo di livello e andiamo al livello in tutti i sensi, sia per il ruolo che per la montata della cifra. Lui si chiama Renato Mazzocchi, funzionario della Presidenza del Consiglio. La Guardia di Finanza del Nucleo Valutario gli ha beccato in casa 230.000 euro in contanti, dentro pacchi proprio, buste già preparate con i soldi, e un appunto con l'annotazione di alcune indagini in corso. Qual è l'accusa, infatti? Che lui si facesse pagare per poi conoscere in anticipo l'evoluzione delle indagini, soprattutto quella che riguardava ovviamente chi pagava. Gli indagati parlavano spesso, ci sono le intercettazioni. Nel corso dell'interrogatorio dell'8 luglio scorso, subito dopo l'arresto, anche Alberto Orsini, che è uno dei cardini di questa inchiesta, che si spacciava per commercialista ed è ritenuto appunto una delle menti del sodalizio, è stato costretto ad ammettere che qualche soffiata era arrivata. Nelle intercettazioni Pizza, altro soggetto a cui faceva capo questa rete, Raffaele Pizza, faccendiere finito in carcere 2 settimane fa, proprio perché è accusato di essere regista di chi pilotava gli appalti pubblici grazie al pagamento di tangenti e poi favoriva assunzioni, Pizza dice ad Orsini che si spaccia per commercialista, chiede appunto la consegna di 200.000 euro perché poi per aggiustare le cose. Stranamente 230.000 euro sono stati trovati a casa di Renato Mazzocchi. Tra l'altro gliel'hanno perquisita bene la casa, perché l'indagine nasce appunto da Pizza e poi ha coinvolto il deputato del Nuovo Centrodestra Antonio Marotta, finito sotto inchiesta per corruzione, e in questa indagine gli specialisti della Guardia di Finanza, coordinati dal generale Giuseppe Bottillo, scoprono appunto i contatti con questo Mazzocchi, che è appunto funzionario della Presidenza del Consiglio. Lui in realtà è anche ex capo della segreteria dell'allora ministro dell'Ambiente Pecoraro Scanio. Poi ha approdato a Palazzo Chigi per occuparsi della struttura di missione per la ricostruzione in Abruzzo, capirai. Pubblico Ministero Stefano Fava dispone quindi una visita nell'abitazione di Mazzocchi. Fanno tanti controlli, e tra cui questo, l'appartamento di Mazzocchi viene ispezionato, all'improvviso spuntano i contanti, le bustarelle e i fascicoli giudiziari. Le spiegazioni che lui dà non appaiono convincenti. Dice: ma no, erano soldi che tenevo da parte. Sì, tutte nelle buste, 230.000 euro. Io ho capito che non si fida delle banche, mi sembra un po' eccessivo. E quindi la richiesta al GIP è che li tenga provento di reato. La tesi viene accolta, e quindi il provvedimento di convalida è stato notificato anche a Palazzo Chigi. Gli viene anche contestato il riciclaggio. Però la parte dell'inchiesta adesso deve stabilire se sia lui il tramite della corruzione, cioè se non avesse proprio il compito anche di smistare una parte di queste tangenti, non solo di tenerle per sé. E qui siamo arrivati al quarto posto. Dopo il metto andiamo al terzo posto, il giallo rosso, nel senso qui parliamo di morti, e mi riferisco all'incidente sul disastro ferroviario sull'Andria a Corato in Puglia, e quindi è un giallo macchiato di rosso perché sono morte le persone per la mancanza di sistemi di sicurezza in quella linea. Ed è il giallo è come ha speso Ferrotranviaria, che gestisce quella linea, i 20 milioni e mezzo di euro che la Regione Puglia sostiene di aver messo a disposizione, sono indagati i vertici di Ferrotranviaria, per aumentare i sistemi di sicurezza nel 2020. 14, dopo il meteo. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, 23 morti nel disastro ferroviario Andria-Corato, e abbiamo raccontato per intere puntate quanto, e questo fa ancora più incavolare, al di là della colpa dei singoli, tutto fosse ampiamente nel 2016 evitabile, e che in questo caso non si potesse nemmeno dire mancavano i soldi, cavolo. E infatti che cosa è successo? Perché l'inchiesta di Trani, che ha coinvolto i dirigenti e il presidente della Ferrotranviaria, si concentra anche su questi 20 milioni e mezzo che la Regione Puglia ha messo a disposizione del Ferrotranviaria nel 2014 per aumentare i sistemi di sicurezza. Il timore è che i fondi, invece che essere stati utilizzati per la sicurezza, siano stati utilizzati per lavori sul grande progetto di adeguamento della Bari-Barletta, cioè che si sia preferito fare altro. Allora, è il 16 luglio 2014, quindi 2 anni fa, l'assessore regionale dei trasporti Giovanni Giannini, riconfermato nello stesso ruolo di Nicky Vendola anche dal neo sindaco Michele Emiliano, con un comunicato stampa annuncia lo stanziamento di 80 milioni provenienti dai fondi europei di sviluppo regionale destinati alla sicurezza, 13 dei quali per le ferrovie del Gargano. Sostanzialmente, fa sapere Giannini, dotiamo tutti i binari e tutte le motrici di un sistema, l'SCMT, sistema controllo marcia treni, per linee treni che possono dialogare tra loro durante la marcia dei convogli, determinando in modo automatico frenature, accelerazioni, rallentamenti e fermate in caso di emergenza. L'SCMT è il famoso sistema, c'è chi diceva sarebbe stato anche il contassi, ma insomma quello che avrebbe evitato la morte e i feriti, ok, per questo sono fuori la grazia di Dio. Tra l'altro è un sistema appunto che avrebbe bloccato i vagoni, ripeto, usavano il fonogramma, forse col contassi sarebbe andata meglio, ma l'SCMT c'erano i soldi. Allora, a 2 anni di distanza non si sa come Ferrotranviaria abbia speso quei fondi sulla sicurezza. Sono due le delibere chiave per conoscere il loro percorso, la 547 del 2 aprile del 2014 e la delibera 1450 del 10 luglio del 2014. In quell'ultima si spiega perché il raddoppio della Andria-Corato veniva escluso dai lavori effettuabili con la vecchia programmazione. È risultato che l'acquisizione dei pareri richiesti dalle norme vigenti ha determinato un allungamento imprevisto della fase istruttoria, comportando una suddivisione del progetto in due lotti. Il secondo lotto viene rinviato alla programmazione 2014-2020, ma infatti manca proprio un tratto di sistema messo in sicurezza. Nonostante il numero di treni che percorre quella tratta si è aumentato a dismisura anche per il collegamento con l'aeroporto di Bari, nonostante circolassero centinaia di treni al giorno e diventava difficile gestire tutto col fonogramma e la telefonata. La prima delibera, in realtà, la 547, che doveva riprogrammare le risorse liberate dalla programmazione europea 2007-2013, in realtà prevedeva un versamento di 83 milioni per il sistema di sicurezza, 43 milioni alle ferrovie del sud-est, 13 milioni alle ferrovie del Gargano, appunto, 6 milioni alle Appulo-Lucane, 20 milioni alla Ferrotranviaria, 14 milioni per interventi di sicurezza in impianti a terra, i restanti per interventi a bordo. Allora, non si capisce dove siano finiti questi soldi, anche perché il comunicato stampa dell'assessore parla di 80 milioni, ma di cui 13 a Ferrotranviaria. Come ha speso i soldi la Bari Nord non si capisce. L'assessore Giannini, intervistato da Repubblica nei giorni scorsi, dice: non ho gli strumenti tecnici per contestare cosa hanno fatto sull'Andria-Corato. Probabilmente aspettavano che si completasse il raddoppio da Corato a Andria prima di agire. Ora, faccio notare che le ferrovie del Gargano hanno avuto dalla regione 13 milioni da investire in sicurezza. Dicono in azienda che i soldi sono stati utilizzati e hanno messo, con il sistema SCMT, in sicurezza 85 dei 95 chilometri gestiti. Anche le ferrovie Appulo-Lucane dicono di aver speso tutti i soldi per mettere in sicurezza. Quindi manca l'appello, sapere da Ferro Tranviaria, ma a questo punto indaga la magistratura, come ha speso quei 20 milioni di euro per mettere in sicurezza la tratta, e tra l'altro erogati nel 2014. Oh, adesso il secondo posto, è brutto avere un terzo posto che si lega a 23 morti, e lo dico perché preferiamo commentare cose anche più grottesche, quasi facete delle volte. Comunque, però non si può neanche dimenticare, se no tutto passa in cavalleria in sto paese. Allora, andiamo al secondo posto, dove che uniamo al primo, perché qui torniamo su un tema vecchissimo, infatti io lancio già, è un primo secondo posto ex aequo. E lancio e do il premio questa settimana alla nostra poco invidiabile classifica ai mitici dirigenti della nostra pubblica amministrazione. And the winner is gli 800 milioni di euro di premi che beccano ogni anno i dirigenti della pubblica amministrazione. 48.000 dirigenti pubblici. Qui il problema non sono gli 800 milioni di euro. Il problema sono il modo in cui vengono attribuiti e quindi distribuiti. Lo fa notare la Banca d'Italia. Voglio dire, dice, scusatemi, com'è possibile che praticamente tutti riescano a beccare, quasi tutti i dirigenti riescano a beccare il premio di produttività? Dice la Banca d'Italia, c'è una tale palude procedurale in cui gli obiettivi che si danno sono così astratti e autoreferenziali che alla fine è ovvio che tutti prendano i premi, nessuno escluso. E in questo appiattimento generale rimette, ci sono tanti operatori che danno l'anima, quindi dirigenti che lavorano bene e hanno un riconoscimento uguale a un altro, o altri che non sono dirigenti e non hanno riconoscimento. Ora, non stiamo parlando di poca roba, perché i redditi da risultato sono il 10% del salario, dello stipendio di un dirigente ministeriale di prima fascia, quindi tanta roba in un anno, il 12% di un dirigente ministeriale di seconda fascia, il 16% dei dirigenti delle regioni a statuto ordinario, e vengono dati a tutti. Al Ministero del Tesoro tutti i dirigenti di seconda fascia ricevono comunque fino a 6.900 euro, non chiamarlo più premio di risultato. Al Ministero della Salute 11 manager di prima fascia su 12 prendono 32.000 euro di premio. La vera domanda è: che cosa ha fatto il dodicesimo per non pigliarlo? Cosa ha fatto? Perché ha datelo anche a lui a sto punto. Tra l'altro la Banca d'Italia fa notare che il modo in cui si dà il premio non è la maggiore competenza tecnica, è anche l'anzianità. Solo l'età è all'origine, scrive la Banca d'Italia, della diversa distribuzione di premi quando c'è. Ogni anno di età in più determina un aumento del premio del 6%. Ma adesso, prima di lasciarvi al traffico e per farvi veramente girare le scatole, vi racconto come vengono presi i premi, cioè che cosa deve fare un dirigente. Allora, poniamo che io sia un dirigente dei beni culturali. Quando è che arriverò al mio premio di risultato? Cosa avrò fatto di speciale? Il premio è un premio, come sanno anche i genitori nei confronti dei figli, se è premio è eccezionale. Dovrà, immagino, aver creato qualcosa di particolarmente rilevante su un bene archeologico? No, se io sono un dirigente dei beni culturali, il premio lo becco se ho partecipato a un certo numero di riunioni. Nella vita normale farebbe parte anche del tuo lavoro. Ma se fossi un dirigente dei Vigili Urbani di Roma, avrei un premio per il risultato, per che cosa? Per aver fatto più multe, per aver controllato il malcostume del traffico romano? No, basta dimostrare di aver vigilato su specifici itinerari e incroci stradali per agevolare la mobilità. Allora, domani io esco a Roma, vado anch'io, mi metto lì, vigilo su specifici itinerari e incroci stradali, anche perché a Roma, come in altre città, lo devi fare, sennò vieni stirato dalle macchine, dai camion, dagli autobus, e voglio il premio di risultato, ok? E magari me lo scalate dalle multe che ho. I dirigenti del lavoro ricevono un premio quando riescono a far partire, tu dici, non so, far partire l'agenzia che incrocia domande di lavoro con offerte di lavoro, fa il dirigente del Ministero del Lavoro? No. Il premio ai dirigenti del Ministero del Lavoro viene dato quando riusciranno a scrivere un certo numero di relazioni. Ma che, li pigliamo pure analfabeti? Cioè, è in dubbio se sappiano scrivere o no un certo numero di relazioni? E quanto lunghe? Li paghiamo a rigo, a battitura, a cartella? Cioè, tutto questo, faccio notare che non è lo stipendio, è il premio. Se fossi un dirigente del Ministero dell'Economia, sarebbe sufficiente trasmettere entro 5 giorni le delibere del Consiglio della Giustizia Tributaria alla direzione. Ora, siccome nel 2016 per trasmettere le delibere del Consiglio della Giustizia Tributaria alla direzione basta una mattinata, ma 5 giorni col piccione le mandi, con il mulo, ma a piedi gliele porti e devo ricevere il premio. Dopo il traffico. Focus Economia. Allora, preso il suggerimento di un ascoltatore, dice, beh, paghiamoli anche per il copia e incolla, chi non sbaglia i caratteri e i formati, giusto, e riesce a fare anche grassetto e corsivo, prende il doppio, giusto, giusto, non sono d'accordo. Allora, in realtà è veramente, almeno dal ministro Brunetta, l'ex ministro Brunetta, che tentiamo di dare una regola ai premi, ai piani di performance che le pubbliche amministrazioni si mettono, sono obbligate adesso a mettere online. Dunque, Renzi e Ramadia hanno deciso di riprovarci, hanno riformato gli strumenti che servono a valutare l'operato dei nostri burocrati. C'è una commissione all'interno del Dipartimento della Funzione Pubblica e una serie di giurie chiamate in ciascuna amministrazione dalle pagelle. Si chiamano OIV, organismi indipendenti di valutazione. Li aveva già inventati l'ex ministro Brunetta, e per adesso la novità è che per garantire l'autonomia i loro componenti fanno parte di un albo nazionale. E poi io ricordo che già ci fu nel 2009 la CiVIT, un organismo che doveva solo verificare la correttezza degli adempimenti formali. Poi le competenze sono passate all'autorità anticorruzione di Cantone, che pure lì, ma scusate, povero sto Cantone, ogni volta che c'è un problema arriva Cantone, è Superman. Però voglio dire, ma perché la valutazione del premio di risultato, mica sta rubando questo, devo dare all'autorità anticorruzione? Siamo un paese veramente strano. Nel 2014 tutto va al Dipartimento della Funzione Pubblica, adesso vedremo se questa nuova, questa piccola riforma della OIV servirà. Il problema è che gli obiettivi in base ai quali vengono calcolati i premi, i manager pubblici se li danno da soli, e quindi le cose da fare non sono più i servizi da offrire ai cittadini, ma un insieme di procedimenti formali di facile realizzazione. È chiaro che se io dico, come prima, le riunioni, i documenti trasmessi, gli atti emanati, è facile, no? Produco carta su carta. Allora, di tutto questo, perché al primo posto l'abbiamo agganciato? Perché almeno avessimo i dirigenti migliori del mondo, anche perché i nostri dirigenti sono pagati mediamente nella pubblica amministrazione 3 volte quelli tedeschi e più di quelli della Casa Bianca, ok? Allora io ringrazio come sempre i colleghi di tutti i quotidiani locali, nazionali che utilizziamo per raccogliere queste notizie. Poi, come ho sempre detto, un monumento a parte lo facciamo a Stella e a Rizzo, perché ci forniscono buona parte del materiale. In questo caso quello che ha scoperto Gian Antonio Stella è incredibile. Il nuovo codice degli appalti, che sta facendo infuriare i costruttori, tant'è che hanno chiesto una sospensione perché per renderlo per capirlo e renderlo attuabile. Allora, è riuscito nel nuovo, su 220 articoli, chi ha scritto il nuovo codice degli appalti, un dirigente, io voglio il nome e cognome, voglio conoscere il licenziamento in tronco, su 220 articoli è riuscito a infilare 181 errori. Se voi ci provate scientificamente, non ce la fate. Tant'è che hanno dovuto emettere in Gazzetta Ufficiale un umiliante avviso di rettifica. Ma la rettifica si fa su una cosa, su due cose, no? 181 rettifiche su 220 articoli. Hanno dovuto mettere 526 righe di rettifiche per i 181 errori. Alcuni erano più veniali, hanno dovuto spostare un punto e traslocare un punto e virgola. Altri, proprio la sciatteria in come scrivi. Servizi di ingegneria scritto in maniera sgrammaticata, e poi spropositi vari. Addirittura ci sono alla pagina 28, articolo 25, comma 6, quinto rigo, viene scritto in sito di reperiti archeologici. Tu dici, che cavolo vuol dire in sito di reperiti archeologici? No, è un errore, doveva essere scritto in sito di reperti archeologici. Ma tu capisci che se in una legge sul codice appalti tu scrivi in sito dire periti archeologici, vuol dire che io devo dire periti archeologici in quel sito in italiano, invece in sito di reperti archeologici ha un altro senso. Ma vogliamo parlare dell'articolo 23,4 secondo rigo, dove è scritto i requisitigli elaborati. I requisitigli sembra una cosa minore, un requisito minore, un requisitiglio. No, è i requisiti e gli elaborati, manca lo spazio. Questo non ha preso però il premio, questo non sa fare gli spazi e non sa fare la punteggiatura, non gli diamo il premio. Allora, le varianti un po' pecoreccia adesso io finisco su questa e non ce la faccio più. Visto il rapporto che ha il cittadino con la pubblica amministrazione, l'imprenditore con la burocrazia, beh, qui forse il funzionario andrebbe premiato, perché scrive a pagina 123, articolo 105, comma 21, all'ultimo rigo, invece di scrivere casi di pagamento diretto dei subappaltatori, scrive casi di pagamento di staccato retto dei subappaltatori. Allora, il caso del pagamento del retto da parte dei subappaltatori, possiamo immaginare, diciamo, qualunque cosa, visto che nel retto, diretto è il pagamento, ma il retto dei subappaltatori inizia a aprire scenari incredibili nella pubblica amministrazione. Quindi, per favore, visto che vengono pagati di 12 volte il retto medio degli italiani, 3 volte i tedeschi, più di quella della Casa Bianca, un consiglio modesto e chiaro, al di là del fatto che io lo premerei per il pagamento di staccato retto dei subappaltatori, licenziatelo. Allora, mi scrive l'ascoltatore, basta con questa classifica, hai rotto, vabbè, il retto, e sei ridicolo, neanche comico. Guardi, io potrò essere ridicolo, nemmeno comico, però quello che leggiamo è tragico, per non dire grave. Allora, andiamo in vari scenari, diciamo, della drammaturgia, ok? A uno mi sottolinea che ci sono errori del T9. Beh, il T9, chissà se è un obiettivo anche il T9, l'obiettivo dei dirigenti, saper usare il correttore automatico dei computer. Anche quello potrebbe essere un obiettivo. Ma comunque il pagamento diretto, che è quello che molti imprenditori, quando hanno a che fare con la pubblica amministrazione, hanno la sensazione di avere un pagamento diretto. E lo so, quindi probabilmente... Guardate che magari il funzionario è stato un po' futurista, ma è arrivato al punto. Il pagamento e il rapporto anche con la pubblica amministrazione è un rapporto diretto. Mi mancava il diretto, guarda. Allora, Pasquale Granata, fondatore di GF Biochemicals, buonasera. Buonasera, buonasera. Anche lei ha esperienza di pagamenti diretti con la pubblica amministrazione, sì? No, per fortuna no. Allora, cosa fa Biochemicals? Poi ci racconta dopo il resto, che ho il GR24. Pronto? Pronto, sì. L'abbiamo persa. Cosa fa Biochemicals? Sì, Biochemicals siamo produttori di acido levulinico, una molecola bio, candidata dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti come uno dei potenziali sostituti del petrolio. È una base chimica sulla quale vengono legate altre molecole per arrivare a prodotti di largo consumo come plastificanti a matrice bio, biocarburanti, additivi per carburanti in generale, solventi e quant'altro. Quindi l'obiettivo è di arrivare a prodotti di performance come quelli a matrice petrochimica però... ma biologici. Adesso, e quindi, noi sapete che questo è lo spazio in cui, per tirarci un po' sul morale, è il nostro Prozac, che sono imprenditori che in questi anni hanno accettato la sfida e si sono messi in proprio, hanno lanciato una nuova impresa. Dopo il GR24 ci racconta quando è nata e chi vi ha aiutato e come sta andando. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Pasquale Granata, fondatore di GF Biochemicals, ci stava spiegando che voi vi siete messi a produrre acido levulinico, che se ho ben capito è un dovrebbe prendere, vorreste che prendesse il posto di altri acidi, ma non di origine bio, ho capito bene? Sì, più che di altri acidi, diciamo di prodotti B2B derivanti dal petrolio. E a cosa serve? Ecco, di base serve come molecola sulla quale grandi aziende possono legare produzioni per arrivare a prodotti come il plastificante, solventi e, ripeto, carburanti, però a matrice bio. Quindi noi forniamo una matrice di base che permette a queste aziende di non cambiare, non rivoluzionare il loro processo produttivo, ma partendo invece che dal petrolio, da questo acido. Che ha e con cosa lo producete? Produciamo di base con sottoprodotti del mais, del legno, anche se l'obiettivo ovviamente finale è quello di utilizzare, come stiamo facendo tutt'oggi, il legno diciamo di riciclo, oppure di riciclo. I sottoprodotti da legno. Sì. Dov'è che è lo stabilimento, l'azienda, dove ha sede? L'azienda ha sede a Milano e in Olanda, quindi a Milano c'è la parte amministrativa e in Olanda la parte di ricerca e sviluppo e vendite. Come stabilimenti siamo in Italia su Caserta e negli Stati Uniti a Minneapolis, in Golden Valley. Quindi anche a Caserta avete uno stabilimento? Sì. Quando è che siete nati? Nel 2008. E chi, i soldi chi vi li ha dati? No, diciamo che di base noi siamo, l'azienda è completamente finanziata da privati. Nel 2008 è stata fondata da me e dal dottor Flamini, ex calciatore del Milan, oggi in forza all'Arsenal. Dalla nostra amicizia di base si è scoperto essere entrambi fan del bio e ovviamente volevamo fare qualcosa di innovativo e quindi condividendo questa passione abbiamo scusi, deciso ma Matteo Flamini, l'ex del Milan? Sì, esattamente. Quindi abbiamo intrapreso questo percorso insieme, supportati inizialmente dal dottor Aldo Bertola della scuola di Natta, l'ultimo premio Nobel per la chimica, ex BASF, e quindi ci ha supportato tutta la parte che riguarda il ricerca e sviluppo nella fase iniziale. Quanti dipendenti avete e quanto fatturate? Ad oggi siamo intorno ai 50 dipendenti diretti e siamo in una fascia di fatturato tra 10 e 30 milioni di euro. E che stime avete come break even, ma soprattutto come fatturati futuri? No, diciamo che di base oggi è solo il punto di partenza, ecco, Caserta è come il Minnesota, non sono altro che due aziende che producono, commercializzano, ma sicuramente sono due aziende pilota nel loro segmento, perché stanno dimostrando che questa tecnologia funziona ed è reale, per cui ad oggi siamo in trattativa con grandi gruppi a livello mondiale, incluso l'Italia, che ovviamente sono molto interessati ad andare avanti con il nostro prodotto, chi come tecnologia e chi come prodotto finito. Senta, le banche vi hanno aiutato? No, ad oggi noi siamo interamente. Ma no perché non avete chiesto aiuto o no perché? No, perché no, diciamo che di base abbiamo cercato di fare le cose con un minimo diciamo di struttura leggera dal punto di vista di costi. Abbiamo cercato di focalizzare, ecco, i centri di costo laddove era necessario e laddove sapevamo che potevano creare valore, quindi ci siamo basati molto su questa visione qui. Quindi abbiamo, diciamo che abbiamo utilizzato bene i fondi che abbiamo messo a disposizione durante gli anni iniziali e quindi il risultato è che oggi siamo interamente ancora detenuti da privati e non abbiamo alcun supporto da banche e abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi 8 anni fa, quindi siamo in linea con quella che era la nostra previsione per il primo decennio, diciamo. Volete anche assumere? Sì, sicuramente assunzioni derivano ovviamente dalle richieste. Beh, certo. Del mercato, dai sviluppi. Noi siamo nati anche con l'obiettivo di creare una realtà solida, una realtà che potesse dimostrare che non c'è solo la Silicon Valley, ma c'è anche qualcos'altro, e che il bio non è solo una giustificazione di una carenza di performance in un prodotto, ma bensì un valore aggiunto di un prodotto ad alte performance. Oh, in bocca al lupo anche per la sede a Caserta, ci mancherebbe. A lei, appunto, a Matteo Flamini, che scopriamo avere appunto anche una componente imprenditoriale nel bio. Grazie quindi a Pasquale Granata, fondatore di GF Biochemicals. Di banche noi invece parliamo, per le quattro banche salvate dal fondo interbancario da 1.600.000.000 di euro, Popolare Etruria, cari Chieti, cari Ferrara e Marche. Le altre banche misero, se ricordate, per salvare e trasformare in good bank e risanare queste quattro banche, misero 1.600.000.000. Adesso ieri c'era la scadenza per avere delle offerte per queste quattro banche. Ora, le offerte sono tre, ma in realtà la terza riguarderebbe solo la parte assicurativa della Popolare Etruria. Il problema, le altre due sono uno dei fondi, uno Apollo e l'altro Lone Star. Il problema, mi sembra di capire, ma chiedo conferma a Luca Davide, sulle 24 ore, è quanto hanno offerto per comprare le quattro banche, questi due fondi. Luca Davi, buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, non hanno offerto a quanto pare molto, e questa rappresenta una nuova spina nel fianco per il mercato bancario italiano, perché a seconda delle indiscrezioni avrebbero offerto tra i 3 e i 500 milioni. Ancora sono cifre da essere confermate, c'è molto riserbo sul tema, ma questo, se confermato, sarebbe insomma un nuovo colpo per il sistema bancario. Perché? Perché le banche devono portare a bilancio una perdita, e se fosse questa la cifra sarebbe una perdita da 1 miliardo e qualcosa, insomma, e cifra che dovrà essere restituita alle banche che hanno messo il prestito, quindi Intesa, Unicredit e UBI. E a questo punto nasce il problema di cosa fare, insomma. Sì, anche perché era circolata nei giorni scorsi l'ipotesi che le banche, appunto, hanno salvato Intesa, UBI, Unicredit, le quattro banche, potessero anche fare un ragionamento di questo tipo. Beh, se dobbiamo portare a casa una perdita secca di un miliardo, insomma almeno un miliardo, perché se le offerte sono tra i 300 e i 600 milioni, almeno un miliardo, ci conviene vendere queste quattro banche, o ci conviene continuare a avere la partecipazione e a vedere se se nel frattempo migliora la loro situazione patrimoniale e quant'altro, e magari non subito, ma riusciamo a recuperare qualcosa di più nei prossimi anni, ho capito bene? E infatti questa è una soluzione che è iniziata a circolare nei giorni scorsi, ne abbiamo dato notizia proprio sul Sole 24 Ore. È un ragionamento che in alcuni ambienti bancari si sta facendo, diverse banche lo stanno portando avanti, e si sta ragionando proprio all'interno del fondo volontario, quindi il braccio volontario del fondo interbancario, di portare avanti questa soluzione che permetterebbe di ridurre l'impatto negativo, perché questa acquisizione andrebbe a partecipazione nel caso in cui fosse il fondo volontario ad effettuarla, anziché portarla a perdita qualora infatti venisse ceduta ai fondi di investimento. E quindi su questo crinale si sta decidendo. Un'alternativa di cui ultimamente si sta parlando nelle ambienti bancari è di fare uno spacchettamento di nuovo. Anche qua c'è ad esempio Popolare Bari, che potrebbe essere interessata a Carichieti, c'è qualche interesse per qualche non vendere in blocco tutte e quattro, ma spacchettarle. Diciamo che però questa comunque non risolverebbe, diciamo, nella totalità la situazione, perché ricreerebbe un problema su quelle banche che probabilmente verrebbero lasciate fuori. Cosa fare ad esempio di una banca X che non viene acquisita? Che succede qua? Torna di nuovo il tema del potenziale bail-in, insomma. Non si vuole evitare di ragionare in questo senso, ma comunque rimane un tema di riflessione profonda anche in seno alla vigilanza stessa stessa si sta ragionando e si preferisce comunque risolvere il problema in blocco. Ecco perché probabilmente nei prossimi mesi, lo capiremo probabilmente verso settembre, perché comunque Banca d'Italia si è presa il tempo per valutare tutte le offerte, probabilmente verso settembre potremmo assistere a un rinvigorimento di questo scenario in cui magari, certo, il fondo volontario si mette insieme, fa uno sforzo, getta il cuore oltre l'ostacolo e magari sceglie di andare ad acquisire in blocco le banche. E questo è il fronte, diciamo, delle quattro banche. Oggi, qui vengo alla borsa, meno 0,16, giornata non con grandi temi, meno 0,16 Milano, più 0,1 Parigi, meno 0,1 Francoforte, Londra più 0,40, Dow Jones più 0,12. Tra chi ha guadagnato, Moncler più 2,70, Telecom più 1,5, Campari più 1,30, Prismian più 1%, e segnalo anche Buzzi Unicem più 0,90%. E invece, per quello che riguarda, tra l'altro oggi sottolineo che su Sole 24 Ore c'è l'ipotesi di 170 manager in uscita da Telecom Italia, mentre per quello che riguarda le banche, la peggiore è Monte dei Paschi, meno 3,30, CNH meno 2,15, Tenaris poi c'è meno 2, Popolare Milano meno 2, Ubibanca meno 1,80, Fineco meno 1,50 come Banco Popolare e Unipol SAI. Qui tutta l'attesa è sugli stress test di venerdì prossimo alle 10 di sera pubblicati. Il Monte dei Paschi ha annunciato un consiglio di amministrazione straordinario proprio in quella data e balleremo tutta la settimana prossima, o tu ti aspetti un mercato attendista che già ha scaricato alcune tensioni nel caso specifico sul Monte dei Paschi? Ma dicevo che le attese non sono assolutamente di grande ansia per questi stress test, non c'è una soglia minima da dover superare, non c'è l'ansia per ricapitalizzazioni inattese, MPS insomma è il caso vero, unico di cui si sta parlando, le altre banche dovrebbero essere totalmente serene. C'è un tema in generale però di prospettiva, questo sicuramente, nel senso che gli stress test poi confluiranno in quelle che sono poi le indicazioni di capitale futura e su questo ci sarà da attendere, insomma, e da monitorare con grande attenzione. Il tema vero MPS, nei prossimi giorni sicuramente ci saranno novità in questo senso. Il management sta definendo in queste ore con la Banca Centrale Europea che cosa fare esattamente di questi NPL e soprattutto cercherà di capire qual è l'impatto proprio su quelli che sono i cosiddetti modelli interni. È una cosa molto tecnica, ma di fatto sostanzialmente se cedono in blocco tutte queste sofferenze a cascata dovranno rivedere tutte le loro, i loro requisiti patrimoniali e ricostituirli. Questo è una doppia sberla per una banca che è già in sofferenza. O aumento di capitale o aiuto di Stato. Da lì non ne usciamo, non usciamo in questo caso col Monte dei Paschi. Grazie Luca Davi. Grazie a voi. Traffico e poi la Turchia, l'uccellaccio e quanto mai d'obbligo visto quello che sta continuando a capitare in Turchia, la affronteremo da un punto di vista anche di carattere geo-economico. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Focus Economia. Allora, 10.600 gli arresti a questo punto in Turchia, 5.000 già convalidati, cancellati 11.000 passaporti, via libera allo stato di emergenza, il fermo di polizia passa dai 2 giorni attuali agli 8 giorni. Ancora, a questo punto sono 65.000 le epurazioni decise da Erdogan dopo il fallito golpe dei militari, lo stato di emergenza andrà avanti per 3 mesi. Oltre agli arresti, sta facendo fuori tutti, 530 dipendenti del Ministero dei Trasporti, 200 delle risorse idriche e forestali, 300 della TV, ha anche appunto allontanato in totale 45.000 dipendenti, più pubblici, più 21.000 docenti delle scuole private a cui ha levato la licenza, 1.600 rettori e presidi universitari rimossi, 9.000 licenziati dal Ministero dell'Interno, inclusi 30 governatori provinciali, 500 imam e poi altre centinaia di dipendenti del Ministero degli Affari Sociali dello staff del Primo Ministro. Ieri Mario Draghi ha detto che è ancora molto presto per capire quali saranno le conseguenze del golpe e della reazione all'attentato golpe in Turchia. Noi abbiamo l'uccellaccio, quanto mai uccellaccio oggi, Giulio Sapelli, docente di storia economica alla Statale di Milano. Buonasera Sapelli. Buonasera a lei e agli ascoltatori, buonasera. Commentiamo una settimana tra virgolette più tranquilla dopo la settimana da incubo la scorsa, quindi tra il disastro ferroviario di Andria, Nizza e la Turchia. Vorrei concentrarmi però sulla Turchia, perché sì, tutti immaginavamo una reazione forte di Erdogan, non così forte probabilmente, cioè qui è la resa dei conti con tutti, non con i golpisti. Dunque sì, però bisogna andarci un po' cauti che sia una cosa così eccezionale. La storia turca ha sempre avuto delle emersioni di quelle che io chiamo le dittature romane, cioè dittature brevi di cui prima si facevano portatori militari. Prima di questo abbiamo avuto tre colpi di Stato, nel 1960, nel 1970, nel 1980. Via via sono stati più lunghi, quello del 60 è durato un mesetto, hanno ucciso il primo ministro appunto neo-islamista, poi nel 70 è durato quasi un anno, nell'80 è durato tre anni e ha dato vita a un governo gestito dai militari neoliberisti che ha fatto le grandi riforme che hanno poi consentito, le cosiddette riforme neoliberali, che hanno consentito alla Turchia di entrare in Europa e di cominciare. E il capo era Turku Özal, un economista, addirittura avevano messo come presidente una donna, Tansu Çiller. A quell'epoca avevano fatto fuori, cioè avevano liquidato dai 100 ai 300 mila dipendenti dello Stato, militari non leali, eccetera, eccetera. Adesso viene fuori una nuova dittatura, limitata secondo me, che si fonda però su un partito di massa mobilitato, l'AKP, di tipo islamista, che non ha più le vecchie radici sufiste che avevano prima in Turchia e che segna e rivela la disgregazione a cui era giunto lo Stato turco. Il problema è questo pseudo golpe, che è un golpe iniziato da chi voleva farlo ma non è riuscito a farlo in tempo, cioè per una ventina di minuti non si sono impadroniti di Erdogan e non l'hanno ucciso, così come fanno di solito i golpisti. Questo ha fatto sì che l'altra parte dello Stato, quella non raccolta con quello che lui giustamente indica come suo avversario storico, Gulen, è stato adesso sopraffatto. È stato sopraffatto, naturalmente chi ha ispirato il golpe non è né Gulen né Erdogan, ma sono le potenze internazionali che da un punto di vista, ahimè, demagogico, lui però richiama, insomma, i caccia, soprattutto gli squadroni che hanno rifornito di carburante gli F-16 che lo cercavano sono partiti dalla base di Antalya, dove tra NATO e Turchia si condividono una sessantina di bombe nucleari tattiche, di cui una quarantina sono di... Però, Sapelli, visto che lei è un principe anche della realpolitik, cioè del realismo in politica, che alcuni chiamano cinismo, altri chiamano realismo, in questo momento, al di là di quello che lei mi sta dicendo, che su un fronte geopolitico, quindi geoeconomico, dobbiamo stare molto attenti alla Turchia, dobbiamo molto fare stare, è molto peggio quello che sta capitando. Mi dica. Dobbiamo stare molto attenti alla NATO, perché quello che ha garantito l'unità di uno Stato dalla rivoluzione ataturchiana, diviso, frammentato tra logge massoniche, logge islamiste e segmenti della burocrazia, pensi che abbiamo 4-5 Confindustrie in Turchia, lotte fratricide, quello che ha garantito era l'appartenenza all'Alleanza Atlantica. Che di cosa stava? Esportava sicurezza all'esterno, ma soprattutto garantiva che la Turchia fosse sì l'antimurale contro l'Unione Sovietica, e però accorpava attorno a questo massiccio potere militare tutte le frazioni. Adesso la NATO, soprattutto per gli errori strategici che gli americani hanno fatto in Medio Oriente, perché hanno disgregato l'Iraq la Siria, il Libano, la Libia, naturalmente la NATO non si presenta più ai gruppi che da circa un secolo si contendono il potere in Turchia, senza esclusioni di mezzi, e adesso la questione si sta disgregando lo Stato. Erdogan cerca di tenerlo assieme con dei metodi che sono quelli tipici di un neo-assolutismo. Lei dice in maniera, appunto, alcuni possono definire cinica, altri realpolitik. Lei dice teniamoci almeno a Erdogan perché non possiamo permetterci una Turchia disgregata. Io non dico niente, io dico che certo quando sei talmente cretino da un punto di vista geostrategico di sciogliere l'esercito iracheno nel 2011, di continuare poi, di bombardare la Siria, di non tenerti Assad, di bombardare Gheddafi, il minimo che ti possa capitare è che venga fuori Erdogan. Perché la Turchia si sente premuta dalla Russia da un lato, e non si tenga conto che in Turchia ci sono più di 1,5 milioni di profughi siriani, e ci sono i curdi che sono divisi in frazioni, combattenti fra di loro, ma tutti combattenti contro i curdi. Quindi lei si rende conto che quello lì che ha ereditato lo Stato ottomano, perché scusi, quell'area lì è stata governata da tre grandi culture spirituali, alla faccia del realista, quello che conta è la spiritualità nella storia, è lo spirito, la cultura arabo-musulmana, la cultura sciita, persiana, per niente araba, e gli ottomani, che sono una mescolanza di tante cose, di neolaicismo, di neolaicismo. Questa cosa, la politica dissennata degli Stati Uniti l'ha disgregata, la Turchia si sente precipitare nel vuoto e quindi tira fuori questo personaggio gran guignolesco che è Erdogan. È la metafora di Hobbes: c'è il lupi contro lupi, benissimo, il Leviatano arriva, vi faccio fuori tutti. Naturalmente lui lo preparava da tempo, perché non puoi avere queste epurazioni così. Lui, come le altre frazioni, preparavano di epurare lui, perché è certo che se uno non segue mai cosa si fa in Turchia, non legge niente, legge solo i nostri infermi quotidiani, e certo che non sa niente. Dica, la prossima volta che l'avremo ospite, sapere, la interrogerò, per così dire, su Trump, perché era l'altro tema. Mi dica solo una cosa, perché io devo chiudere veramente la puntata, ma se dovesse vincere Trump, visto che lei sta accusando l'America di avere un ruolo fondamentale in questa disgregazione, andrebbe meglio o peggio secondo lei? Non andrebbe peggio, perché sarebbe il potere dei white trash, dei bianchi poveri, quello che capita anche in Europa, quando ti occupi solo di diritti umani, di robe civili, eccetera, e lasci da perdere i poveri, il lavoro dipendenti, vengono fuori Trump, no? Ecco, Trump sarebbe una cosa terribile, perché Trump è chiaramente neo-isolazionista. Bisogna vedere se poi il grande gruppo che Karl Bright chiamava il potere militare industriale glielo lascia fare, perché può anche darsi che lo facciano secco. E con questo, diciamo, elemento entusiasmante per il fine settimana, io la lascio volare via, Sapelli. Non so se lei sia sullo stretto del Bosforo o dove cavolo sia. Vola via anche il professor Giulio Sapelli. A me non resta che ringraziare come sempre Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana. Augurare a voi comunque un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.